Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Sulle frequenze di Rock FM, tutti i giorni, alle ore 19, arriva Eclettica, arriva Giulio Caperdoni per tenervi compagnia mentre state viaggiando dal lavoro a casa, oppure siete già a casa e state preparando la cena, oppure, nel caso peggiore, siete ancora al lavoro. Questa è Eclettica, Eclettica che vuol dire musica, che vuol dire cinema, che vuol dire letture. Giulio@radiorockfm.com è l'indirizzo di mail per scrivermi direttamente, ma anche per iscrivervi alla lista nera di Eclettica che vi permetterà di ricevere le playlist di ogni settimana, e myspace.com/eclettica, il nostro spazio su internet. Il bere è un rito collettivo, nessun vero messicano si ubriacherebbe mai da solo, dice Don Venustiano arrotolando un altro taquito de carnitas. Il mignolo, abilissimo nel sostenere l'involtino di tortiglia senza perdere una sola goccia di salsa. Don Venustiano avrà almeno 70 anni, ma si muove con i gesti di un ragazzo dallo sguardo malizioso e il sorriso ammiccante. A tradirne l'età è solo la pelle curtida del volto, conciata come il cuoio di una sella che, oltre al sole e al vento della Sierra Madre, ha dovuto affrontare l'anidride solforosa della megalopoli. Nel profondo resta il nortegno che lasciò Zacatecas mezzo secolo fa, le sue case di pietra rosa ai piedi del deserto dove la División del Norte di Pancho Villa vinse una delle battaglie decisive. Questo era l'incipit de La polvere del Messico di Pino Cacucci. In space, Rocky went up. In smoke for the crowd. Ideas he got lost with pinball eyes and lots to see. I'm coming up on you. There's not a thing that you can do. I'm coming up on you. night, Darth Vader came down from planet Vulcan and told me that if I didn't take Lorraine out, that he'd melt my brain. Yeah, well, let's just keep this brain-melting stuff to ourselves, okay? Prima di tutto vi voglio ricordare della possibilità di ascoltare Eclettica non solo quando viene mandata in onda su Rock FM, ma anche di poter scegliere voi il momento, grazie al podcasting. E poi vado a raccontarvi di questa strana combinazione che si è creata negli scorsi minuti, che mi ha anche quasi costretto a scegliere quello che sarà il prossimo brano. Infatti mi sono accorto, dopo aver fatto una serie di scelte, che tutte ci facevano guardare verso il cielo, tutte avevano un argomento legato a quello che abbiamo sopra le nostre teste. Infatti abbiamo aperto con 17 Evergreen, che ci hanno fatto ascoltare Lunar One dal loro EP omonimo, la band di San Francisco che è uscita con questo EP per Lucky Number. Poi c'è stato uno sprazzo cinematografico dove si parlava di Darth Vader e del Planet Vulcan, quindi sempre là in alto. E proseguendo a guardare in alto, poi è stata la volta dei Guster con Satellite, la band di Boston, dal suo ultimo disco. E quindi vi dicevo che tutte queste scelte casuali mi hanno portato ad una scelta obbligata per quanto riguarda il prossimo brano. Infatti avevo da tempo pronto un brano di un gruppo scozzese che ancora non ha inciso nessun disco ufficiale, loro sono di Edimburgo e si chiamano, guardate un po', Cancel the Astronauts, e ce li ascoltiamo con un pezzo dal titolo perlomeno simpatico, simpatica come poi la melodia della canzone: I'm the president of your fan club and last night I followed you home. Acido, pizzichi di luce, ronzio, echi di colpi che rimbalzano da una parete all'altra del cranio, immenso come un solaio. Luce violenta, credo che gli occhi siano aperti. Bianco, li chiudo, li riapro, il bianco diventa grigio chiaro, torna bianco abbagliante. Un bruciore secco mi ustiona la gola e interrompe le esplorazioni. Rosso, con piccoli scoppi gialli, cataclisma di un colpo di tosse. Tutti i dolori raccolti dalla memoria crepitano in scosse che affiorano vibrando, mordono la pelle, tornano nel buio. La testa, le braccia, le gambe, il petto, la gola soprattutto. No, è il fianco, credo il sinistro. C'è tutto, mi sento tutto e vivo. Un flusso stridente, poi un'onda di suoni grotteschi. Si ripetono, assomigliano a una voce. Ho voglia di ridere. Questo era l'incipit di

Tell her destiny brought you together. Tell her that she is the most beautiful girl you've ever seen in the world. Girls like that stuff. What are you doing to us? I'm writing this down. This is good stuff. Flashing dreams inside her life. Time is multiplying, fantasizing about everyone she knows. Loving everyone she knows. Spelled nearly a dozen nights. Haunting empty streets of factory gardens and feeling them with songs. Keep saying feeling them with songs. Found a train car filled with wine. Huge cool mix on the wild. While I strum my way guitar. Man, you looked awful bizarre. Lying naked on your side. Rose and chestnuts on the ground. Loved you till I nearly drowned. Woke up in another dial. You're in a diamond train. It's to you I sing. Music now. Can't give you anything. You're in a diamond train. Music now. She would climb down 26 ladders. She would hide out deep in storm sewers. And the sounds could echo forever. And she pulled out 56 treasures. And the sounds would echo forever. In a cool mouth she would know pleasure. On a lonesome she is a survivor. A random from afar keeps a penknife in her pocket, smiles at strangers, afraid of cars. She drinks salt water and cocaine. Told me it put hairs on her brain. Loved by all drunkards and the insane. They call her name out. Venite, venite che vi accompagno fino alla fine di questa prima parte di Eclettica, poi staremo assieme altri 30 minuti. Una prima parte di Eclettica che ha avuto un suo svolgersi particolare, perché nei primi 15 minuti abbiamo ascoltato brani mai passati in Eclettica, quindi primi ascolti assoluti, e invece in questa seconda parte siamo stati accompagnati da artisti che già la scorsa settimana, la prima di questa nuova stagione, avevate avuto occasione di ascoltare. Sono appena stati in nostra compagnia in questo percorso verso la fine della prima parte. Prima Meredith Bragg e poi Hot Springs, e chiudiamo questo percorso assieme a Robert Wyatt con Just As You Are dal suo ultimissimo comic opera.